sono le 14:29 minuti, siete all'ascolto di Popolare Network. Torniamo in prossimità della Fiera del Levante. L'inviato ora è Piero Bosio. Sì, allora questo rumore che sentite sono i manifestanti che stanno sfasciando le vetrine in piazza Carlo Rosselli, mentre la polizia ha intensificato il lancio di lacrimogeni, sono ormai a decine i lanci e li stanno estendendo anche a tutta la piazza. Il grosso di questo imponente Pacifico Corsia sta proseguendo nella via laterale, qui circa 400-500 persone, adesso si picchiano anche tra loro perché alcuni sono contrari a spaccare i vetri, hanno disfatto un'intera concessionaria, mentre la polizia si trova a circa 150 metri, sono circa 200-300 poliziotti schierati, compatti, vuol dire una presenza anche provocatoria perché Pavese sapeva che qui passava il grosso del corteo, che tutti l'avrebbero visti. E adesso gruppi di manifestanti avanzano e fuggono, arrivano a 30 metri dalla polizia, lanciano i sassi, rilanciano indietro i lacrimogeni e poi scappano perché partono i lanci consistenti di candelotti. Fermo, fermo. Si piccano anche da loro perché alcuni vogliono che se ne vadano e altri invece vogliono fare gli scontri. Quindi per adesso la situazione è questa. La polizia sembra per ora non muoversi. Oggi sono tutto, pagherete caro, pagherete tutto. Io mi trovo in questo momento nello spezzone del network per i diritti globali, qui OMAS, diversi centri sociali. Qui poco fa una persona si è staccata dal corteo e ha cominciato a devastare un distributore della benzina. È stato immediatamente fermato, c'è molta attenzione, mi sembra, in questa parte del corteo da parte del servizio d'ordine del network nel cercare di isolare immediatamente chiunque tenti azioni di questo tipo. Infatti la persona è stata immediatamente fermata e allontanata prima ancora in realtà che potesse fare qualunque cosa. Allora, io mi trovo praticamente con le spalle Piazza Limone, dove è stato ucciso Carlo Giuliani. Di fronte a noi, in via Ivrea, ci sono i gipponi della polizia con gli agenti schierati, casse antisommossa. Sono arrivati da dietro la galleria che è sul percorso della manifestazione, hanno fatto una retromarcia e si sono messi a chiudere quella che è una delle vie che porta verso la piazza di Brignole. La testa del corteo sta arrivando lentamente, diciamo che qui c'è una folta avanguardia che stava sfilando assolutamente tranquilla, tutta la zona era completamente deserta fino a 5 minuti fa, all'improvviso questi gipponi, che sono una decina, hanno fatto questo passaggio sotto la galleria e sono posizionati per chiudere appunto via Ivrea. Per il momento invece andiamo verso la coda, abbiamo in linea Luca Rencanati. Sì, mi trovo 200 metri distante da Piazza Sturla in via Caprera, qui la situazione è veramente tranquilla, ci sono tantissime bandiere, quelle che vedo che chiudono il corteo sono quelle dell'Arci, sono tutti ragazzi e ragazze che chiudono il corteo, tutti speranzosi di potersi incamminare e di proseguire verso questa manifestazione.